tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È morto a 90 anni Dario Fo, il grande giullare, attore, regista teatrale, scomparso a Milano questa mattina. Dal mistero buffo al Nobel per la letteratura nel 97, ultimo italiano a riceverlo, e poi l'impegno politico a sinistra fino all'approdo ai 5 Stelle. E siamo in attesa, tra pochi istanti vi daremo il nome del vincitore del premio Nobel di quest'anno, che viene assegnato proprio in questi minuti. Autorità tedesche sotto accusa dopo la morte in carcere del siriano accusato di terrorismo. Si è impiccato con la sua maglietta, ma è mancata la vigilanza. Dopo le proteste e le discussioni arriva la decisione di Bruxelles. L'Italia potrà pescare anche le vongole sotto i 25 mm, misura minima 22. Denuncia nel Bresciano, violentata nel parco da 3 richiedenti asilo, ma loro si difendono, aveva offerto sesso in cambio di soldi. McDonald's ricorre al TAR contro lo stop al ristorante in Piazza Duomo a Firenze, chiede 18 milioni al comune toscano. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Tra un attimo apriremo la pagina su Dario Fo, ma prima abbiamo l'annuncio del Nobel per la letteratura 2016, abbiamo in diretta la nostra Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Bob Dylan, vi dico solo questo nome, sono abbastanza emozionata, c'è stato un grossissimo applauso. Questo è il nome del premio Nobel per la letteratura annunciato proprio qualche istante fa. È stato veramente un grosso applauso che è ancora in corso davanti alla porta dell'Accademia di Svezia, che si apre tradizionalmente per l'annuncio del premio Nobel alla letteratura. Bob Dylan. Perché poi tra l'altro nelle ultime ore erano risalite le quotazioni di Dylan, no? Ebbene sì, devo dire che in questi casi si teme o si spera, poi dipende dai punti di vista, che appaia sempre il nome sconosciuto, e invece ha molto stupito, e c'è stato un applauso veramente felice e soddisfatto. Tutto questo nel giorno, e tra un attimo torneremo a parlare di Bob Dylan, vi faremo sentire anche un po' di musica naturalmente e vi racconteremo qualche dettaglio in più. Tutto questo nel giorno nel quale muore un altro Nobel anomalo, per così dire, Dario Fo, proprio nella giornata di oggi. Un punto con Anna Rita D'Ambrosio. Anna Rita, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Simone, un'altra sorpresa del Nobel, come dicevi tu. Un uomo libero, mi piace definire così Dario Fo. Secondo me è la definizione più bella che si può dare di un personaggio che ha vissuto una vita lunga, 90 anni, lasciandoci davvero tanto. Un giullare della cultura italiana, secondo una sua stessa definizione. Lucido sino a questa mattina alle 8, quando ci ha lasciati, nonostante i problemi respiratori che erano emersi negli ultimi giorni e che lo avevano costretto al ricovero all'ospedale Sacco di Milano. Così il direttore del reparto del Sacco, dove era ricoverato, Delfino Luigi Legnani. Il paziente è stato estremamente lucido, collaborante fino a ieri. Diciamo che fino all'altro giorno parlava, riconosceva. Ieri mattina io ho portato a vederlo il suo antico curante, quello che l'ha fatto ricoverare da me, che è il professor Milazzo. Per un istante l'ha riconosciuto, tu sei il mio curante ufficiale, non avremmo potuto fare di più, speriamo di aver fatto quello che era giusto nella maniera corretta. Una vita lunga, 90 anni, quella di Dario Fo, una lezione la sua che resta anche dopo che il corpo ci ha lasciati questa mattina, il corpo ha lasciato questa terra, resta l'anima di un grande attore, drammaturgo, regista, scrittore, pittore, scenografo. Oggi possiamo dire che raggiunge Franca Rame, la sua compagna di una vita, la sua compagna nell'arte, che ci aveva invece lasciati il 29 maggio del 2013. Fo la ricordò con un monologo straordinario al suo funerale, un monologo su Adamo ed Eva scritto dalla stessa Franca Rame. Il racconto, basato su alcuni testi apocrifi dell'Antico Testamento, è una rielaborazione al femminile della Genesi, con Eva protagonista, e così parla della morte. Ti dirò che appresso il fatto che mi toccherà morire davanti a tutto quello che ci offre in cambio, la possibilità di scoprire, conoscere e vivendo, beh, mi va bene anche quello. Pur di aver conoscenza, coscienza, dubbi e provare amore, ben venga anche la morte. Parole straordinarie ascoltate in questa giornata nella quale ci ha lasciati nel 97. Simone, lo ha ricordato anche tu, Fo vinse il Nobel per la letteratura, quello che è stato assegnato oggi, ci ha detto la nostra Marta Cagnola, a Bob Dylan. Poi parleremo del Nobel della letteratura a Fo più tardi. Il 20 settembre scorso Fo aveva presentato a Milano il suo ultimo libro, Darwin, dedicato al padre dell'evoluzionismo. Il penultimo libro invece era una storia d'amore, un intrigo di potere affascinante e coinvolgente. C'era un pazzo re in Danimarca. Dario Fo ne aveva parlato, di questa follia dei rivoluzionari, con la nostra Alessandra Tedesco. Si dice che una cosa che le persone per bene reputano follia, le persone calme che badano a non strafare, ad essere attenti, fiduciosi nella legge, quella che avvantaggia loro naturalmente, davanti a qualcuno che muove le acque, soprattutto cambia i concetti fondamentali del vivere civile, e allora quello è un pazzo. Forse era un pazzo, sì, perché aveva un impegno civile, politico, inscindibile, quotidiano, inscindibile dalla sua stessa esistenza. Mi piace ricordare, Simone, che nel 1962 Dario Fo e Franca Rame condussero Canzonissima, che all'epoca era l'appuntamento di tutti gli italiani, si stava tutti davanti alla TV. E loro presentavano sketch però a sfondo sociale sul malaffare, le morti bianche, tanto che i burocrati della Rai prima controllarono i testi. Dopo 7 puntate Fo e la Rame se ne andarono, non vollero più trasmettere. Il clamore fu enorme, la Rai calerà sulla coppia una saracinesca per 15 anni e Fo e la Rame continuarono a fare politica nel paese, nei teatri, e tutti i loro spettacoli poi seguirono la storia politica del paese. Lasciarono i teatri borghesi per i circoli arci, hanno scritto Degli anni di piombo, Morte accidentale di un anarchico nel 70, Non si paga nel 74, Il Fanfani rapito nel 75. Sono gli anni della rottura con il Partito Comunista. Nel 73, ricordiamolo, Dario Fo fu arrestato a Sassari per resistenza a pubblico ufficiale durante la replica di uno spettacolo, e poi lo ricorderete, il rapimento, la violenza sessuale a Franca Rame, una violenza che non li ha però mai zittiti. E negli ultimi anni la non politica, l'allontanamento dalla politica e la vicinanza ai 5 Stelle. Così Fo aveva raccontato a Marta Cagnola la disillusione della politica. Purtroppo, come si diceva un tempo, spietale morta, perché questa speranza, che legata quasi a una pietà verso coloro che sono disperati, e allora gli dai la speranza, no? Non conta più, perché è una beffa, perché tutti i politici hanno giocato su questa carta da persone truffaldine. Persone truffaldine, la disillusione della politica e l'avvicinamento alla non politica. Siamo quasi in chiusura, Simone, mi sono dilungata perché è una vita da raccontare ovviamente molto piena, molto densa. Io vorrei chiudere con le parole del figlio, Jacopo Fo, parole rilasciate a Rai News 24, che ha detto, è successo questa mattina alle 8, è stato un gran finale e se n'è andato. Sentiamo le parole di Jacopo Fo. L'unica cosa sensata che mi sento di dire in questo momento è che lui ha resistito e ha continuato a lavorare, ma veramente 8, 9, 10 ore al giorno fino a 12 giorni fa, quando è stato ricoverato. Io credo che bisognerebbe metterlo proprio nei prontuari medici. Serve l'arte, serve la passione, serve l'impegno civile, perché questo dà qualità alla vita. Voglio salutarvi però con le parole dello stesso Dario Fo, tornando al saluto che fece a Franca Rame. Vi saluto così. C'è una regola antica nel teatro: quando è concluso non c'è bisogno che tu dica altra parola. Saluta e pensa che quella gente, se tu l'hai accontentata nei sentimenti, nell'affetto e nel pensiero, ti sarà riconoscente. E grazie dunque alla nostra Narita D'Ambrosio per questo lungo racconto della, e dovuto lungo racconto della vita di Dario Fo. Più avanti poi nel corso di Effetto Giorno vi faremo sentire anche aspetti più specifici, proprio il tema del Nobel della letteratura e poi che cosa ha rappresentato per il mondo del teatro, ma iniziamo a sentire qualche reazione intanto dal mondo della cultura e da Milano. Oggi era raccolto un pezzo del mondo della cultura per l'inaugurazione alla Pinacoteca di Brera, dove c'è Adriana Fracchi. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, mi trovo alla Pinacoteca di Brera, infatti, dove oggi il mondo della cultura milanese si era dato appuntamento per l'apertura di Porta Gregotti per la prima volta dopo 113 anni. Questo proprio nel giorno in cui è morto Dario Fo, che proprio qui studiò in età giovanile, e qui c'era il ministro della cultura Franceschini, sindaco Sala, insieme al direttore Bradburn, hanno chiesto a tutti presenti all'evento un minuto di raccoglimento e poi Franceschini ha preso la parola e ha ricordato così Dario Fo, sentiamolo. Beh, un grandissimo italiano, un regista, attore, sceneggiatore, pittore, scrittore di teatri, di teatro, veramente uno dei più grandi italiani del Novecento. Io ricordo in particolare quando qualche mese fa abbiamo inaugurato a Verona il museo che abbiamo dedicato a lui con tutti gli oggetti della sua vita, e ricordo l'entusiasmo, la freschezza, l'entusiasmo da ragazzo, non da novantenne, nell'illustrare tutti i singoli ricordi, oggetti della sua vita. Anche il sindaco di Milano, Sala, che era presente, ha voluto ricordare Fo, che insieme a Umberto Eco è stato uno dei milanesi illustri che la città ha perso di recente. Sentiamo dunque Sala. Grande interprete di Milano, ma di una Milano portata nel mondo. E alla fine è questo che... di cui Milano ha bisogno di attingere alla propria cultura, ma di avere l'ambizione di valicare tutti i confini. È stata una voce critica, lo sappiamo, ma di nuovo questo è Milano. Milano diventa grande con il valore dei suoi cittadini. E nell'amatissima Brera dunque, che Fo ancora frequentava da maestro ovviamente, oggi appunto l'apertura di Porta Gregotti, un altro passo verso la Grande Brera, che da oggi sarà la porta d'ingresso principale della Pinacoteca per rimettere Brera nel cuore di Milano, un progetto a cui sta lavorando dalla sua nomina il direttore Bradburn, progetto per il quale, due parole, sono stati stanziati 40 milioni di euro dal governo, che prevedeva tra l'altro prevede l'apertura di Palazzo Citterio nel 2018 e il recupero della caserma Mascheroni, un protocollo che sarà firmato a breve, pare entro Natale. E da qui è tutto. Grazie dunque ad Adriana Fracchia, e arriva notizia di pochi istanti fa da Filippo Del Corno, l'assessore comunale alla cultura, che dice che l'intenzione della città, l'intenzione del comune, è ricordare Dario Fo e salutarlo al Piccolo Teatro. Vedremo che cosa succederà da questo punto di vista. Come si è detto, anche un grande impegno politico, e anche la politica lo ricorda. Uomo libero, anticonformista, eterno giullare, grande maestro. Queste le espressioni più ricorrenti nei tantissimi messaggi che in queste ore arrivano dal mondo della politica. Una delle prime reazioni, quella di Matteo Renzi. Con Dario Fo, scrive il Premier, l'Italia perde uno dei grandi protagonisti del teatro, della cultura, della vita civile, mentre il ministro degli esteri Gentiloni ne sottolinea allegria e carica di contestazione. Ma numerosissimi sono i messaggi che arrivano dagli esponenti 5 Stelle, movimento al quale Dario Fo negli ultimi anni della sua vita si era prima avvicinato, per poi trasformare questa vicinanza in una militanza vera e propria. Di lui infatti scrivono così i parlamentari grillini in una nota: era per noi punto di riferimento fondamentale, voce critica, guida civile e spirituale, e in un post sul blog Grillo ne ripercorre l'impegno concludendo: sarai sempre con noi Dario. Infine, come sempre, le voci fuori dal coro. Nessuna ipocrisia, non mi era mai piaciuto, dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera Brunetta, con me usò termini razzisti, riferendosi alla mia altezza. Luci e ombre invece per Salvini, bravo artista, per lui i leghisti erano razzisti. Vabbè, acqua passata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E veniamo, come annunciato, al Nobel per la letteratura di quest'anno. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my Scusate per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, spiace interrompere questa voce, spiace interrompere questa musica e queste parole, ma il Nobel per la letteratura 2016 va a Bob Dylan. Marta Cagnola, eccoci. Per chi si fosse messo in ascolto solo in questo momento, non ha sentito l'emozione che ci ha colto nel momento dell'annuncio e che mi ha colto nel momento dell'annuncio. Non sono riuscita a dissimularlo perché l'abbiamo dato proprio nel giro di pochi istanti, e quindi è stato veramente un applauso liberatorio in Svezia e una certa emozione per noi. Classe 1941, Bob Dylan, nato artisticamente negli anni della controcultura statunitense degli anni 50 e 60, quando c'era Allen Ginsberg, quando si ascoltava Woody Guthrie e si ascoltava il folk, e si capiva che il folk poteva essere perfettamente sposato ai testi che in quegli anni esprimevano il senso del tempo, la critica sociopolitica, gli anni dopo la guerra, la rinascita, ma una rinascita piena di interrogativi. Lui è stato uno dei primi a capire che si poteva attribuire validità letteraria ai testi legati alla musica folk subito. Impegno civile, ma anche canzoni d'amore, ben inteso nei primi album dal 62-64, questa dicotomia amore e impegno civile tipica del folk americano. E poi 1963, The Free Wheeling Bob Dylan, arriva Blowing in the Wind, un inno antimilitarista che è rimasto una poesia immutata negli anni. È impossibile adesso metterci a citare tutte le canzoni e tutti i testi che hanno influenzato il panorama musicale di quegli anni, ma anche la letteratura, che si sono cibate della letteratura, come citavamo poco fa Allen Ginsberg, ma addirittura la volontà di affiancarsi a poeti come Rimbaud, lo vediamo ad esempio tra le righe di Mr. Tambourine Man. Tu però hai scelto Hurricane, e Hurricane è una invece delle poesie, vedi, mi viene già da definirla poesia, più vicine al suo impegno civile, ispirata alla notizia dell'imprigionamento di Rubin Hurricane Carter, cioè un pugile, una condanna ingiusta avvenuta nel 1967, poi lui verrà scarcerato nel 1985. Quindi impegno civile per Bob Dylan, grandi poesie in Italia, ne hanno scritto tanti. Vorrei citare la traduzione straordinaria fatta l'anno scorso da Francesco De Gregori, che ci ha spiegato anche la fatica nel rendere questi testi, che sono davvero di grande intensità e dignità poetica e letteraria. Secondo me un grande premio Nobel. Ho ancora un po' di emozione nella voce, lo confesso. E grazie dunque alla nostra Marta Cagnola per averci raccontato anche il Nobel. Come avete capito, è una puntata di Effetto Giorno un po' particolare, quella di oggi. Quindi andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi sentiremo un po' di altre notizie. Non vi faremo mancare nemmeno il nostro consueto giro per l'Italia, ma appunto, puntata particolare. A tra poco. Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato sostanzialmente solo della morte di Dario Fo, che è avvenuta questa mattina, premio Nobel per la letteratura nel 1997, dell'assegnazione del premio Nobel per la letteratura di quest'anno, un'assegnazione che è andata a Bob Dylan. Abbiamo definito i due premi Nobel anomali. C'è un ascoltatore che si è offeso e ci dice: no, ma perché anomali? Perché sono differenti dalla norma, non sono degli scrittori, non lo era Dario Fo e non lo è Bob Dylan, erano un attore e un cantante. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e poi torneremo alle altre notizie di questa giornata in una puntata anomala di Effetto Giorno, e lo facciamo iniziando da Firenze. Siamo in linea con Giovanni Bettarini, che è l'assessore allo sviluppo economico del comune. Bettarini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ogni volta che ci sentiamo diciamo, parliamo di questa storia qua. Allora parleremo di Nobel. Prima o poi sì. Allora, la vicenda è quella del McDonald's che aveva chiesto di aprire un ristorante in Piazza Duomo a Firenze. Voi avete opposto la normativa che avete deciso di varare, il Consiglio Comunale, e che riguarda la tutela dell'area UNESCO del Comune di Firenze. Ebbene, succede che McDonald's ha deciso di ricorrere e chiedervi 18 milioni di euro. Sì, 18 milioni è la prima richiesta, in realtà dice anche nel ricorso, che poi c'è anche il danno d'immagine, eccetera. 18 milioni valutano il mancato guadagno per questa apertura, diciamo. Noi ovviamente ce l'aspettavamo, perché è chiaro che si ricorre a questo tipo di misura perché è stata una misura forte, però nel frattempo sono successe altre cose anche positive. Io sono stato alla Camera perché questa nostra norma ha ispirato una norma nazionale che adesso è nel decreto Scia 2 del ministro Madia, che noi speriamo diventi legge, che è una legge che assume il nostro principio, cioè il principio di dire sì, c'è la liberalizzazione, c'è la libertà d'impresa, sono tutti i principi del nostro ordinamento e peraltro secondo me anche giusti, ma c'è anche il diritto dovere da parte delle pubbliche amministrazioni di difendere il loro patrimonio culturale, che è anche un patrimonio di rete commerciale e poi di identità alla fine. Davanti al Duomo di Firenze, evidente, aprire un negozio ha un significato particolare. Questo Bettany potrebbe, secondo lei, questo ricorso al TAR potrebbe anche finire per bloccare o per sospendere il vostro regolamento, questo regolamento che avete varato? La possibilità, perché l'oggetto di ricorso è esattamente il regolamento, cioè nel ricorso al TAR si richiede prima di sospendere e poi di annullare il nostro regolamento, viziato secondo appunto McDonald's da una serie di vizi di forma e di sostanza. È ovvio che qual era il rischio che correvamo, l'abbiamo fatto in maniera consapevole. Noi abbiamo fatto una cosa nuova e innovativa, cioè abbiamo detto abbiamo messo al pari di alcuni principi, dei principi di tutela e di identità della nostra città. Guardi, peraltro mi hanno chiamato da Venezia, da Ferrara, dal primo municipio di Roma, ho parlato con tante persone, tanti amministratori che sono interessati a questo, perché oggettivamente c'è un problema. È un'esperienza comune il fatto che un cittadino ti fermi e ti dica: ma perché avete fatto aprire quello? Perché avete fatto aprire l'altro? Mi dica una cosa, Bettarini, come andranno da questo momento in poi i rapporti con McDonald's? Perché voglio dire, non è che siete proprio una piccola città, quindi immagino che loro abbiano interesse ad aprire anche da altre parti, non solamente in Piazza Duomo. Loro hanno già altre realtà, hanno 6 negozi aperti in città. Infatti noi abbiamo detto aprite da altre parti, cioè noi non è che facciamo una guerra personale, noi siamo un'amministrazione. Quindi non ci saranno ritorsioni dopo il ricorso di McDonald's. Ci mancherebbe, noi si vorrebbe però che noi chiediamo rispetto per quello che è un principio sacrosanto di tutela dell'identità fiorentina, noi per questo ci battiamo. Questo è il vostro punto, grazie a Giovanni Bettarini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze. Quando, e lo diciamo sempre, quando cerchiamo degli altri ospiti e questi non possono esserci, abbiamo cercato anche McDonald's, non è che non vogliano parlare, ma semplicemente in giornata non potevano, nei nostri tempi stretti che abbiamo per rintracciare gli ospiti, che in genere è nell'arco delle ultime 2 ore prima della trasmissione, non siamo riusciti a rintracciare, loro non potevano evidentemente per precedenti impegni. Veniamo alle altre notizie e iniziamo dalla Germania, dove è morto suicida il siriano arrestato e accusato di terrorismo. Sentiamo. Un fiasco, un terribile errore, uno scandalo. È un coro di polemiche quello che si sta levando in Germania per il suicidio in carcere del 22enne siriano Jaber al-Bakr, arrestato per terrorismo lunedì scorso a Lipsia. Uno scandalo nello scandalo scoppiato dopo il suo arresto, quando si era scoperto che il giovane, quando era già stato accolto come rifugiato, aveva viaggiato inosservato tra Siria e Germania in almeno un'occasione. In carcere al-Bakr aveva già tentato di uccidersi e stava facendo lo sciopero della fame. È guardato a vista, avevano assicurato le autorità carcerarie al suo avvocato, poche ore prima che si impiccasse in cella, pare con la sua maglietta. Quanto accaduto richiede un rapido e completo chiarimento, ha detto il ministro dell'Interno de Maizière. Ad assicurare al-Bakr alla giustizia erano stati altri 3 siriani. Al-Bakr li aveva poi accusati di essere stati suoi complici prima di quel tradimento. La sua morte renderà più difficile appurare la verità. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ricorderete le infinite polemiche, le grandi attese, ne abbiamo parlato anche tanto qua su Radio 24. Finalmente arriva la decisione europea sulle vongole. In Italia si potranno pescare anche quelle fino, cioè dai 22 mm in avanti. A rischio non ci sono solo stati i menù a base di vongole, ma anche le esportazioni di questo mollusco, che rappresentano quasi la metà della produzione nazionale. Un settore, quello ittico, che impegna direttamente in Italia una flotta di circa 710 imprese e oltre 1600 addetti. Con il via libera definitivo della Commissione europea ai pescatori italiani, non sono solo salvi gli spaghetti alle vongole made in Italy. Dopo due anni di battaglia, dal 1 gennaio del 2017, le dimensioni minime delle vongole che si potranno pescare in Italia passeranno a 22 mm dai 25 attualmente previsti dal regolamento comunitario. Regolamento che aveva infatti messo fuori gioco soprattutto le aziende nostrane che operano nell'Adriatico. Qui infatti le vongole, anche quelle mature, raggiungono una dimensione massima di 22 mm. Soddisfatto il sottosegretario per l'agricoltura e la pesca Giuseppe Castiglione. E ora arrivano anche i fondi europei. E avviamo una stagione nuova di utilizzazione anche delle risorse comunitarie che saranno messe a disposizione del nostro paese. Un miliardo di euro per i prossimi anni per il settore della pesca. Per questo clima di collaborazione ha portato a chiudere tutte le procedure di infrazione che l'Italia aveva nei confronti di Bruxelles nel settore della pesca. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma intanto si apre un altro fronte, perché i risicoltori sono contro l'Europa per l'invasione del riso asiatico. L'Italia, primo produttore europeo, è capofila di una rivolta che culminerà negli Stati Generali convocati per gennaio a Milano, tra tutti gli attori della filiera continentale. Il presidente dell'Ente Nazionale Risi, Paolo Carrà. Auspichiamo una maggiore attenzione da parte dell'Unione Europea, in particolar modo dalla Commissione, per quanto riguarda le importazioni a dazio zero di riso, in particolar modo proveniente dalla Cambogia. Concessioni che erano nate con l'intento di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. In realtà, col passare del tempo, abbiamo visto che il vero arricchimento è stato per le multinazionali che in questi paesi hanno costruito degli impianti di trasformazione. Un dato allarmante è che da due anni in Italia la superficie investita a riso indica, che è lo stesso riso che viene prodotto in questi paesi PMA, in Italia questa superficie si è addirittura dimezzata. Basta pensare che, fatta 100 la produzione italiana, il 30% è destinato al mercato domestico e il 70% è esportazione. Di questo 70%, più della metà è riso indica. Brutta giornata quella di oggi sui mercati, e ne parliamo tra un attimo, poi riprenderemo il nostro giro per l'Italia, andremo a Chiari, dove c'è stata quella che è stata denunciata come una violenza di gruppo da parte di tre richiedenti asilo pakistani. Loro si difendono, andremo a parlare col sindaco per capire anche com'è la situazione da quel punto di vista in uno dei tanti comuni italiani che sta praticando l'accoglienza non tra poche difficoltà. Una pausa tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Il Nobel per la letteratura 2016 va al grande cantautore americano Bob Dylan per aver creato, dice l'Accademia di Svezia, nuove espressioni poetiche all'interno della tradizione della grande canzone americana. E tutto questo nel giorno della morte di un altro Nobel per la letteratura italiano. Se ne va a 90 anni Dario Fo, il grande giullare, attore e regista teatrale, è scomparso a Milano questa mattina. Autorità tedesche sotto accusa dopo la morte in carcere del siriano accusato di terrorismo. Si è impiccato con la sua maglietta, ma è mancata la vigilanza. Dopo le proteste e le discussioni arriva la decisione di Bruxelles. L'Italia potrà pescare anche le vongole sotto i 25 mm, misura minima 22. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, eccoci di nuovo nel nostro giro per l'Italia. Adesso ci spostiamo a Chiari, in provincia di Brescia, per una vicenda che mette ancora il dito nella piaga del problema della difficile convivenza che spesso c'è con gli stranieri che stanno arrivando in Italia, con questa grande ondata, con questo grande flusso di migranti. La vicenda è di una ragazza di 22 anni che ha denunciato lo stupro da parte di tre richiedenti asilo pakistani. Ci scrive un ascoltatore, tra l'altro, quando abbiamo ne abbiamo parlato poco fa, ci scrive un ascoltatore, dice: ma non è un controsenso parlare di richiedenti asilo per dei pakistani? In Pakistan c'è la democrazia. In realtà no, nel senso che, per esempio, non è questo il caso, evidentemente. Ci sono delle leggi in Pakistan che proibiscono l'omosessualità, per cui per esempio gli omosessuali pakistani possono richiedere asilo politico in Italia, quindi le regole che riguardano l'asilo politico sono un po' più ampie della presenza di democrazia o meno. Ma al di là di questa singola vicenda, Massimo Vizzardi è il sindaco di Chiari ed è in linea con noi. Buongiorno Vizzardi e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. 19.000 abitanti, ovviamente non vogliamo entrare con lei, sindaco, nello specifico di una vicenda che verrà vagliata dai magistrati, a quanto risulta le indiscrezioni che stanno circolando. I tre si sono difesi dicendo che questa ragazza avrebbe chiesto del denaro in cambio di sesso. Tutto questo sarà ovviamente appurato dai magistrati, compreso e capito come andrà. Io quello che vorrei capire da lei, lo stiamo facendo con tanti sindaci in giro per l'Italia, sindaci che stanno subendo la pressione del collocamento in giro per l'Italia di una serie di migranti e richiedenti asilo che poi magari sono in attesa appunto di una valutazione da parte delle commissioni competenti se hanno diritto d'asilo oppure no, se hanno diritto a rimanere in Italia oppure no. E vorrei capire com'è la situazione da voi. Poi assolutamente, i temi su questo fatto di cronaca sono tanti. Uno, il fatto è, come ha detto lei, c'è una delle indagini e vediamo di vedere queste indagini a cosa portano. Poi c'è il tema dell'accoglienza, il tema della sicurezza e come intervenire su queste problematiche. Il tema dell'accoglienza, oggi anche Chiari ha sentito, abbiamo due cooperative che in accordo con la prefettura che fa questi bandi stanno organizzando e gestendo due progetti, uno riguarda 14 africani e uno riguarda 9 ragazzi pakistani, di cui uno è quello interessato da questo fatto di cronaca. Sono effettivamente oggi dei progetti pertinenti alla prefettura calati sul territorio della stessa, quindi massimo rispetto per il prefetto. Mi dica questo, Vizzardi, dato che l'ho già sentito da come me l'ha detta, sì. Calati sul territorio dalla stessa prefettura, vuol dire che, come per altri sindaci, non l'avvisano nemmeno, cioè semplicemente assegnano gli appalti e non vi arriva una telefonata che vi dice guardate. Infatti, dicevo, massimo rispetto per il prefetto che deve cercare di risolvere questa situazione, ma oggi effettivamente i sindaci non vengono ascoltati, non vengono informati, ci sono delle cooperative che vincono dei bandi e poi, come nel caso di Chiari, o sono proprietarie loro stesse di appartamenti, come nel caso di una, oppure, come nel caso di questa, fondamentalmente va dai privati, affitta gli appartamenti e li mette a disposizione del progetto. Quindi nego anche in questo caso assolutamente che si tratti di appartamenti messi in essa a disposizione dal comune. Il comune non ci ha messo un appartamento, non ci ha messo un soldo. Questo tutto avviene rispetto a una situazione che comunque parliamo di persone in una situazione tragica. Però è bene precisare questo. Oggi i sindaci non vengono ascoltati su questo tema, e penso che non sia un tema che possa essere messo in capo ai comuni che hanno già tante competenze. Non può essere messo in capo ai comuni, dice lei? Beh, insomma, oggi mi sembra che ai comuni viene sempre date meno risorse pubbliche e vengono sempre posti in essere. No, ma non, mi scusi, non dico dal punto di vista finanziario, dico dal punto di vista proprio della relazione, nel senso che io immagino che un sindaco è quello che ha sotto mano il territorio, conosce certo. I luoghi, sa quali sono i posti migliori probabilmente nei quali si possono mettere queste strutture di accoglienza e quindi, appunto, ripeto, una relazione un po' più proficua con la prefettura da questo punto di vista possa aiutare. Certo, potrebbe esserci sicuramente. Con questi ragazzi, ad esempio, stanno portando avanti l'idea di fare dei lavori socialmente utili, chiamiamoli così. E tuttavia, diciamo che a volte, anche per questi progetti, a volte gli uffici comunali non hanno le competenze né oggi il tempo per portarli avanti. E quello che chiediamo eventualmente a chi di dovere è che non ci si limiti ad affidare alle cooperative questi progetti, perché poi ci sono alcune cooperative che fanno dei progetti. Alcune cooperative invece guardano solo l'aspetto economico. Quindi quando vi sono questi affidamenti, poi bisogna seguire che ci siano davvero dei progetti attorno a queste persone, le quali non possono essere poi ridotte ad accamparsi sul territorio senza che abbiano qualcosa da fare durante la giornata. E la sua impressione è che tra le cooperative che operano a Chiari, qualcuno guardi solamente l'aspetto economico e non a quello di accoglienza, quello di progetto? No, guardi, questo non lo voglio dire, dico solo che mi piacerebbe che attorno a questo problema dei richiedenti asilo ci fosse qualche progettualità in più e qualche attenzione in meno invece all'aspetto economico. Che lei dice in alcuni casi le sembra prevalente. Io immagino, mi scusi, lei ha chiari, però un po' il territorio ce l'ha sotto mano, a prescindere da quello del suo comune. Quando io vedo, no? Tanti richiedenti asilo oggi che sono nulla facenti, mi chiedo perché non ci sia un progetto sociale che prevede una serie di impegni per questi ragazzi. Ci sono dei comuni che si stanno accordando, lo sta facendo Milano per esempio, no? Per far fare qualche lavoro, chiamiamolo socialmente utile, o qualche lavoro genericamente inteso a queste persone. Lei ci ha pensato? Assolutamente, stavo dicendo che con una di queste cooperative, proprio quella che si occupa di ragazzi pakistani, si stava lavorando. Poi ci sono sempre mille problemi burocratici, tra cui assicurazioni, corsi e quant'altro, che rallentano questi progetti. Però insomma, comunque un tentativo c'è. Io la ringrazio, grazie a Massimo Vizzardi, che è il sindaco di Chiari, provincia di Brescia, per essere stato con noi. E una piccola precisazione per gli ascoltatori: quando abbiamo parlato dei richiedenti asilo e che possono richiedere asilo per esempio nei paesi nei quali l'omosessualità è considerata un reato, abbiamo fatto l'esempio del Pakistan perché parliamo di questi tre pakistani, è evidente che se sono accusati di quel reato e se quel reato hanno commesso non possono essere omosessuali. Abbiamo detto anche non è questo il caso, evidentemente, e però era per darvi la misura del fatto che l'asilo politico, la richiesta di asilo politico non dipende solamente dalla presenza o meno di democrazia in un paese, ma dipende da molti altri elementi. Pensate solamente alla discriminazione religiosa che avviene in alcuni paesi, per cui dei cristiani possono venire in Italia e richiedere l'asilo politico. Con questo chiudiamo. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.